Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chi già me lo chiede, confermo che il programma sarà in diretta anche domani, con l'orario regolare nella giornata di domani. Allora, i temi di oggi, alcuni sono già stati ricordati nei nostri GR24, l'Istat che ha quasi una settimana dal rapporto Censis, che noi continueremo a esplorare e investigare, conferma non il rancore, questo fa più parte dell'analisi qualitativa del Censis, ma il dato statistico, ossia risale il reddito disponibile e il potere d'acquisto delle famiglie. Leggo testualmente: una significativa e diffusa crescita del reddito disponibile e del potere d'acquisto delle famiglie si associa a un aumento della disuguaglianza economica, oltre che del rischio di povertà o esclusione sociale. Il dato, ahimè, lo dico perché è un po' vecchio, è relativo al 2015. La crescita del reddito è più intensa per il quinto, per la più ricco della popolazione, trainata dal sensibile incremento della fascia alta dei redditi da lavoro autonomo, in ripresa ciclica dopo diversi anni di flessione pronunciato. Quindi il 20% più ricco ha avuto un aumento sensibile, allo stesso e cita l'Istat il lavoro autonomo, che dopo diversi anni di flessione e crisi, da questo punto di vista, ricordiamo insomma che non è che i lavoratori autonomi se la siano passata benissimo in questi anni, ma è tornato a crescere. Invece per 3 italiani su 4 il reddito è sotto i 30.000 euro, ripeto il dato del 2015, mentre il Censis si riferiva sostanzialmente al rapporto 2016, però diciamo, questo dato ti aiuta anche a capire perché, nonostante il recupero dell'economia che sta proseguendo, aumenti anche il rancore, se vogliamo sintetizzare in maniera un po' brutale. 3 italiani su 4 sono sotto i 30.000 euro, sopra i 70.000 euro solo il 2,8% degli italiani. Qui attenzione, perché c'è anche il tema che molti anni abbiamo affrontato dell'evasione fiscale, ma quasi un italiano su 3, quindi tra i residenti, è a rischio povertà o esclusione. Il peggioramento è anche nel 2016 rispetto all'anno precedente, perché si dal 28,7% si passa al 30%, e aumentano sia le incidenze di individui a rischio povertà, sia la quota di quanti vivono in famiglie gravemente deprivate, così come quelle delle persone che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa. Gli obiettivi dell'Unione Europea sono lontani, tra l'altro la strategia del 2020, insomma, dice la stessa Istat, è difficilmente, sono quasi impossibile da raggiungersi. Ne parleremo diffusamente con l'Uccellaccio, che oggi in occasione del Ponte dell'Immacolata, qualcuno mi chiede ma perché domani? Perché domani, come sapete, è Sant'Ambrogio, è Milano, è la città. Si ferma, diciamo, e poi il Ponte dell'Immacolata, vedo già il primo dato di Federalberghi, 7.330.000 italiani in viaggio per l'8 dicembre, più 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'88% resterà in Italia, l'11% andrà all'estero. Il giro d'affari previsto corrisponde a circa 2 miliardi e mezzo di euro. Questo Ponte di Immacolata, che appunto per i milanesi inizia stasera e per tutti gli altri inizia invece domani sera. Ancora, per quello che riguarda invece gli altri temi, oggi avremo anche un collegamento con un'area geografica che sta cercando di rialzare faticosamente la testa. Mi riferisco a quella che venne chiamata nel 2000 la terra dei fuochi, per indicare una vasta area in Campania, a cavallo tra la provincia di Napoli e di Caserta, dove furono scoperti reati gravissimi di interramento di rifiuti tossici, rifiuti speciali, e l'innesco anche di numerosi roghi e rifiuti. Da lì ci fu un danno, intanto un rischio per la popolazione locale, ci sono 57 comuni nell'area con 2 milioni e mezzo di abitanti, sono 33 comuni nella provincia di Napoli e 24 nella provincia di Caserta, ma anche un danno alle aziende dell'agroalimentare. Per cui oggi è stato fatto il punto, è un punto importantissimo perché è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno con la Regione Campania, con il Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli, ne parleremo a brevissimo. Chiuderemo con il Bitcoin perché continua la sua corsa, vola un nuovo record, supera i 12.000 dollari, ancora si spinge verso i 13.000 dollari, a spingere la moneta digitale, l'attesa del primo future, ne abbiamo parlato, il via libera delle autorità americane, il future su Bitcoin potrebbe aumentarne la legittimità presso gli investitori. Faccio notare che il primo future sarà lanciato il 10 novembre. È chiaro che chi ha comprato, qualcuno me lo scrive, i Bitcoin quando valevano 600 dollari sta guadagnando tantissimo, perché siamo a oltre 12.000 dollari, così come chi li ha comprati inizio anno quando valeva 1.000 dollari. Ne parleremo nella seconda ora del programma, come sempre invece anche la borsa, più 3,95%, quasi il 4% di rialzo per Telecom Italia dopo il consiglio di amministrazione che ha confermato il piano di investimento, più 3% IUX Santa Portè, più 1% Prismian e ancora l'1% lo guadagnano sia Leonardo che Ferragamo. Per quello che riguarda i titoli che perdono, vedo alcuni bancari, in particolare Banco BPM -1,60, Mediobanca -1,60, Fiat Chrysler pure, Tenaris -1,5 come banca generali. L'indice complessivamente perde lo 0,40%, 3,49. Poi c'è il calo molto forte del credito valtellinese anche oggi, -7,62%, ne parleremo durante i mercati finanziari. Dicevo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La pagina, ho detto 10 novembre, chiedo venia, 10 dicembre chiaramente per quello che riguarda il future sui Bitcoin. Comunque, dicevo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre anche la diretta su Facebook. Qualcuno mi chiede anche di ST Microelectronics, sì, prima di BPM il peggior titolo tra quelle maggiori capitalizzazioni, perde un 3,90%, non la peggiore, ma vanno male oggi tutti i tecnologici. Andiamo avanti con le notizie in breve invece, come sempre partiamo da quelle di carattere internazionale. Secondo un primo calcolo che ha fatto il Financial Times, la riforma fiscale di Trump, che abbiamo sempre detto, ma non come critica, come dato oggettivo, che avrebbe avvantaggiato Wall Street, infatti la vede con un grande interesse Wall Street, le grandi corporate americane. Insomma, il Financial Times fa i conti e dice che Apple sarebbe la maggiore beneficiaria della riforma delle tasse americana e potrebbe avere risparmi fino a 47 miliardi di dollari se l'attuale piano dei repubblicani passerà. Attualmente Apple ha parcheggiati all'estero 252 miliardi di dollari e sotto l'attuale regime fiscale dovrebbe pagare 78 miliardi e mezzo di dollari se riportasse il fondo negli Stati Uniti. Invece con la riforma delle tasse approvata dal Senato statunitense, Apple potrebbe pagare solo 3,31 miliardi di dollari per riportare i soldi negli Stati Uniti, con un risparmio di 47 miliardi di dollari. La Brexit. Allora, Theresa May insiste, dice che il Regno Unito uscirà dal mercato unico e dall'unione doganale, questo rispondendo oggi al Question Time, ma sottolinea anche la volontà di raggiungere un accordo con Bruxelles che sia positivo per l'intero Regno Unito, in particolare riferendosi alle future relazioni commerciali con l'Unione Europea. Da questo punto di vista devo dire che al di là del giro di parole siamo sempre alla solita questione, insomma, si è risolto il tema dell'assegno, ma non dovrebbe non della circolazione delle merci e anche dei cittadini. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi con il caso nordirlandese e l'avanzare di richieste analoghe anche da parte di Scozia e la città di Londra. Faccio notare oggi che il Financial Times riconosce all'Italia il fatto che se la Banca Centrale Europea ha ceduto sulla riforma, l'addendum si chiamava, dei crediti deteriorati, è grazie alle proteste di cui l'Italia si è fatta capofila, la controffensiva politica guidata dall'Italia. Ricorderete il tema, la Nui annunciò, creando scompiglio tra le banche italiane, ma non solo, a fine ottobre, che da inizio da gennaio 2018 tutte le nuove sofferenze bancarie sarebbero state contabilizzate in maniera molto più rigida, e quindi anche per le sofferenze legate a un mutuo, per crediti che non si riescono a esigere ma legati a un mutuo, massimo era 7 anni prima dell'azzeramento del valore. Questo avrebbe creato, ed è stato molto duro il presidente del Parlamento Tajani, Parlamento Europeo, nel dire questa è un'iniziativa politica, non fa parte, diciamo, dell'attività della Banca Centrale Europea, anche perché avrebbe creato in maniera quasi automatica un restringimento, un raffreddamento di tutte le erogazioni di credito anche nei confronti dei mutuatari. La BCE poi ha fatto un marcia indietro, non vuole perdere la faccia, lo riconosce anche lo stesso Financial Times, crede di poter riformulare le proposte in modo che consentano ancora di mettere pressione sulle banche, ma senza arrivare agli automatismi. Il piano europeo continua, il piano della BCE, continua il Financial Times, è finito nei guai con il Parlamento europeo e con il Consiglio europeo, e ora i supervisori accettano di dover mandare le proposte, anche perché tutti gli esperti legali sono concordi nel dire che questo va al di là del mandato europeo dell'SSM. Veniamo all'Italia, c'è poco oltre a quello che ricordavo dell'Istat, che sarà apposito approfondimento, e anche del turismo. Faccio notare che visto che parlavamo del ponte dell'Immacolata, che lo shopping di Natale online cresce in Italia del 16% rispetto all'anno scorso e più del doppio della media europea. La voce più rilevante della spesa online in Italia è quella per i regali, con 72 euro a famiglia. L'Italia si classifica al terzo posto nei paesi europei dove si spende di più online, l'indagine della Coldiretti, davanti a noi Gran Bretagna e Germania. Restiamo in tema di online, perché da un lato l'AGCOM, quindi l'autorità garante delle comunicazioni, ha diffidato le società del gruppo Amazon, ossia Amazon Italia Logistica, Amazon City Logistica SRL, a regolarizzare la propria posizione con riferimento al possesso dei titoli abilitativi necessari per lo svolgimento di attività qualificabili come servizi postali. Traduco, l'AGCOM ha detto: attenzione, i servizi che rende Amazon si qualificano in parte come servizi postali, e quindi devi regolarizzarti, devi avere i titoli abilitativi che comportano, lo scrive l'AGCOM, per le società che svolgono attività postale il rispetto di vari obblighi, tra cui l'essere in regola con le disposizioni in materia di condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale. Ora, questo è importante non solo per i lavoratori di Amazon, la vicenda di Piacenza è stata molto commentata, ma è importante anche per stabilire un principio, che la concorrenza è sacrosanta, e ci mancherebbe, e da sempre la difendiamo, se è una concorrenza a parità di campo da gioco. Voglio dire, le poste italiane svolgono servizio postale e sono sottoposte anche in materia di condizioni di lavoro alla legislazione nazionale. Tu Amazon vuoi far concorrenza alle poste, perché di fatto lo fai, benissimo, sei sottoposto alle stesse regole e condizioni di lavoro della legislazione nazionale. Non è né una punizione, niente. Si gioca con le stesse regole, l'abbiamo detto mille volte anche nel caso delle vicende Uber e tassisti e quant'altro. Concorrenza è una cosa, liberalizzazione selvaggia, in cui si dà un vantaggio di fatto ad Amazon, in questo caso, al di là di dove paghi le tasse Amazon, che è tutto un altro discorso, e non si può fare. Amazon gioca con le stesse norme a cui si sottopongono le poste italiane tutti i soggetti che vogliono esercitare un'attività che si qualifica come attività postale. E a proposito di tassazione sul digitale, faccio notare che il presidente della commissione bilancio, relatore della manovra, Francesco Boccia, parlando della web tax durante i lavori sulla legge di bilancio, ha invitato tutti a riflettere, anche per ragioni di gettito, se non abbia più senso eliminare i meccanismi burocratico-amministrativi e anticipare l'imposta al 2018, mettendoci anche l'1 o il 2%, ma con tutte le transazioni dentro, quindi anche riferita all'e-commerce. Io penso che si avrebbe un gettito tra le 3 e le 5 volte superiore. Il vice ministro dell'economia Enrico Morando ha detto, dopo l'invito di Boccia, che si è disponibile a ragionare eventuali modifiche della web tax. Per quanto riguarda la manovra, faccio notare che torna l'ipotesi di una tassa sul fumo, questo per rifinanziare il Fondo Sanitario Nazionale con una tassa apposita sui tabacchi. E invece, per quello che riguarda la commissione bancaria, c'è sta molta tensione. Alle 18 si riunirà la commissione bicamerale sulle banche. Il tema era audire, quindi chiamare in commissione Ghizzoni e vedere se la vicenda, quella del sottosegretario Boschi e delle dichiarazioni del libro dell'ex direttore De Bortoli, in cui De Bortoli citava Federico Ghizzoni dicendo che Marilena Boschi si sarebbe rivolta a lui per vedere se c'era un interesse di Unicredit a rilevare Banca Etruria e salvarla dal crack. Allora, alle 18 torno a riunirsi l'ufficio di presidenza. Renato Brunetta ha detto che Casini farà una proposta divisa in due, un pacchetto su cui c'è consenso, che prevede le audizioni di Visco, Vega, Sapponi, Barbagallo e Padoan, a cui si aggiunge anche la richiesta di audire Maria Cannata, nonché l'amministratore delegato di Deutsche Bank e il vice procuratore della Corte dei Conti. Queste audizioni si svolgerebbero entro il 17 dicembre. Poi c'è un secondo pacchetto con le proposte di tutti i gruppi, un pacchetto più caldo, dedicato a completare le audizioni come quelle di Consoli, Ghizzoni e altri. In questo gruppo c'è anche Gianni Zonin, l'ex numero uno della Popolare di Vicenza, il presidente della BCE Mario Draghi, anche se questo nome è stato più volte escluso dallo stesso Casini e anche dal PD. Si andrebbe comunque verso il sì all'audire sia Ghizzoni, ex numero uno di Unicredit, che Consoli e Zonin. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina poi di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo con il primo tema, che è una buona notizia visto che ci occupiamo della terra dei fuochi. Come dicevo, infatti, tra oggi e domani Regione Campania, Dipartimento di Agraria dell'Università di Studi di Napoli e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno promuovono un momento di riflessione e anche di analisi sulle nuove frontiere della ricerca su ambiente, cibo, salute. Intervenuto anche il Ministro Martina, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La cosa interessante è capire se e come è migliorata la situazione della terra dei fuochi. Anche da un punto di vista economico era prioritaria la sicurezza dei cittadini, chiaramente, e forse da questo punto di vista, stando ai dati diffusi oggi, qualche buona notizia c'è. È in collegamento con noi la nostra Laura Bettini, che ha seguito la prima giornata dei lavori. Laura, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti. Sì, i dati sono effettivamente confortanti, come dicevi tu, forse non erano neanche così terribili come erano parsi in una prima battuta. Era il 2013 quando scoppiò lo scandalo e partì questo allarme per la cosiddetta terra dei fuochi a causa delle confidenze di un pentito sullo sversamento di rifiuti tossici e pericolosi in quest'area, appunto ormai chiamata la terra dei fuochi, tra le province di Napoli e Caserta. I dati che sono stati presentati oggi, sia per quello che riguarda la salute dei cittadini, sia per quello che riguarda l'ambiente, sono decisamente positivi. Ovviamente quelle indagini sulla salute saranno le più lunghe da compiere. Quelle sull'ambiente invece hanno già portato all'individuazione di soli 33 ettari di terreno non coltivabile, che peraltro non era neanche coltivato, quindi insomma non c'era prima agricoltura e non ci dovrà essere in futuro, e alla segnalazione di solo 6 aziende sulle 10.000 che sono state controllate per i loro prodotti. Quindi direi la situazione è diciamo rosea, e tutto sommato lo dimostrano anche i dati che economicamente stanno supportando una ripresa che, ricordiamo, negli anni successivi all'allarme ha portato la campagna a perdere una bellezza di 500 milioni, non bazzecole, sì. Insomma. No, anche perché la cosa interessante è che i danni economici sui prodotti agroalimentari campani si sono generati soprattutto per le speculazioni sui prezzi, cioè, e non sui volumi. Precisamente. I prodotti venivano comunque acquistati, ma a prezzi più bassi. Allora, delle due l'una: se il prodotto non ti fidi, non lo acquisti, ma andare a speculare e marmaldeggiare su una situazione del genere ha creato 300 milioni di euro di danno nel 2014 solo per l'area interessata, e 200 milioni di euro nel 2015. Però oggi, se ho ben capito, sono stati diffusi dei dati in cui si segnala una controtendenza, un cambio proprio nell'andamento dei valori. Esattamente, i dati sono quelli che sono positivi, come dicevi tu. Io direi che possiamo sentire come ce li ha riassunti il direttore dell'Istituto Zooprofilattico, che ha appunto coordinato questo lavoro monitorando anche l'aspetto economico. Si chiama Antonio Limone. Rispetto al 2015 abbiamo un incremento del nostro dato di esportazione del 19%. Per quanto riguarda soprattutto la mozzarella di bufala, abbiamo un grande incremento nell'esportazione. Ma il fatto che stiamo convincendo tutti che il prodotto campano è un prodotto sano ed è di qualità è dovuto soprattutto a questa grande strategia dei controlli che abbiamo messo in piedi da un po' di tempo a questa parte, in questa regione. Avere 100.000 dati sull'ambiente, aver analizzato 10.000 aziende, aver fatto 30.000 analisi per poi arrivare a 6 non conformità, credo che sia un dato molto significativo per dire che il cibo campano è innocente e buono. Noi ci teniamo a mantenere questa regione in una condizione di grandi controlli per garantire la salute pubblica, ma soprattutto nel ribadire che il nostro è un prodotto sano e controllato. Lei ha citato prima le mozzarelle di bufala, un'altra eccellenza è il pomodoro, questo riguarda, penso, alla coltivazione, i suoli, i 33 soli ettari che sono stati trovati non adatti alla coltivazione, tra l'altro non neanche coltivati sono. 33 ettari su tutta la superficie campana. Chi ha fatto una strategia di controlli così attenta e quale altra regione oggi ha contezza del suo territorio? Noi abbiamo analizzato acqua, terreno, aria, abbiamo classificato le falde acquifere superficiali e profondi, oggi abbiamo costituito un catasto dei pozzi e abbiamo messo in su un regolamento regionale per il controllo dell'acqua d'uso irriguo. Io credo che questo sforzo vada apprezzato, credo che la regione sia sulla strada giusta nel riscattarsi rispetto alla terra dei fuochi. Abbiamo sgretolato il teorema del falso, finto della terra dei fuochi, oggi ne abbiamo costruito uno stigma. E devo dire, Laura, per concludere, che appunto tu citavi il campionamento, lo dico anche a chi scrive, ma scusatemi, la Campania, ahimè, spesso finisce la nostra poco invidiabile classifica. Se c'è una buona notizia, è inutile che mi scriviate, ecco, chissà com'è, prima delle elezioni le cose vanno sempre bene. A parte che le elezioni non so ancora se sono a marzo, ad aprile o a maggio, ma voglio dire, così come se c'è una brutta notizia non è per fare un favore all'opposizione, se c'è una buona notizia non è per fare un favore al governo, sono notizie, basta, che due... mozzarelle. Allora, da questo punto di vista, tu citavi e le citava anche Antonio Limone, direttore dell'Istituto Zooprofilattico, casi virtuosi proprio per quello che è successo. La Campania ha operato un insieme di verifiche altissime sulle aziende agroalimentari. Laura, 30.000 campionamenti su 10.000 aziende e sono emersi solo 6 casi di positività. Cioè, da una cosa negativa, mi sembra di capire, è emerso un percorso questa volta virtuoso quanto a monitoraggio, controllo e attenzione di tutto, suolo, acqua e aria. Precisamente, tra l'altro, con la fiducia non solo, diciamo così, locale, ma anche europea, se pensiamo che nella Piana d'Estelle viene prodotto circa il 50% dell'insalata in busta del mercato europeo. Quindi non è che dici ci fidiamo noi lì che abitiamo lì, no, ci sono stati controlli provenienti da tutti i paesi europei, qualcuno addirittura mi hanno raccontato ha mandato i suoi tecnici sul posto, gli austriaci per fare un esempio, e bene, hanno preso campionamenti, hanno fatto tutti i loro controlli e hanno deciso di comprare tutte le fragole di Giuliano, che è un'eccellenza locale. Quindi, no, ma anche perché qualcuno mi scrive chi controlla il controllore, dopodiché vorrei ricordare che Dalla Germania ci sono arrivate un paio d'anni fa, vado a memoria, come data le mozzarelle blu. Quindi magari un domani andremo noi a controllare come fanno quelle specie di mozzarelle tedesche o quel formaggio lì, perché va ben tutto, era giusto, c'era un danno di immagine reputazionale fortissimo, giusto rispondere così. Cerchiamo di non essere sempre tafazzi con noi stessi. Scusami, per concludere Laura, i dati in crescita riguardano sì la mozzarella di bufala campana DOP, appunto più 32% in 3 anni, ma tutti i generi dell'agroalimentare campano? C'è il pomodoro che segna un più 13, i prodotti ortivi più 18%, ma anche la pasta più 12, insomma direi che riguarda un po' tutto ciò Bene. Che viene dalla Campania. Oh, grazie anche a Laura Bettini. No, non si autocertificano, lo dico un altro ascoltatore, ha appena spiegato Laura Bettini che i controlli sono stati fatti per gli stati europei, in alcuni casi sono anche andati gli ispettori europei. Non so in quale altra parte dell'Unione Europea si siano mandati ispettori italiani a verificare che quella specie di roba che vedi in giro dappertutto, ricordiamoci che l'Italian Sounding vale il doppio di quanto esportiamo. Su 30 miliardi che esportiamo, l'Italian Sounding, cioè il finto italiano, io ho visto recentemente anche in India mozzarella italiana Product of India, con scritto così, vale 60 miliardi. Quindi va bene i controlli, era giusto farli per evitare qualunque dubbio, ma il dato complessivo del primo semestre nell'anno, parlo di esportazioni, è più 14% con 271 milioni di euro per quello che riguarda le esportazioni agroalimentari della Campania. Il dato è della Banca d'Italia. Grazie ancora a Laura Bettini, andiamo sul meteo, la pubblicità e poi prima della borsa, insomma, da una notizia positiva all'uccellaccio che ci racconterà, terrà assieme dati del Censis della settimana scorsa, dell'Istat di oggi, aumenta, risale il reddito e il potere d'acquisto, ma aumenta anche la disuguaglianza economica. Questo invece è appunto l'Istat di oggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, dopo il 51esimo rapporto del Censis, lo ripeto, la ripresa c'è, ma cresce l'Italia del rancore. E non si è distribuito il dividendo sociale della ripresa economica e il blocco della mobilità sociale crea rancore. La paura del declassamento è il nuovo fantasma sociale, sintetizza il Censis della scorsa settimana. Oggi l'Istat, che non fa analisi qualitative, le fa quantitative, statistiche, ci dice nel 2016... è salito al 30% il numero di persone residenti in Italia a rischio di povertà e esclusione sociale, un peggioramento rispetto al 2015 quando era il 28,7%, 18 milioni di persone a rischio di povertà e esclusione, siamo lontanissimi dagli obiettivi dell'Unione Europea, ma la cosa più, secondo me, importante ancora è che, aggiunge l'Istat, una significativa e diffusa crescita del reddito disponibile, del potere d'acquisto delle famiglie, si è però associata a un aumento della diseguaglianza economica, oltre che del rischio di povertà o esclusione sociale. In particolare, la crescita del reddito è più intensa per il quinto più ricco, cioè per il 20% più ricco della popolazione, trainata dal sensibile incremento della fascia alta dei redditi e del lavoro autonomo, in ripresa ciclica dopo diversi anni di flessione pronunciata. Ecco che quindi la forbice tra i più benestanti e i più poveri si è allargata. Professor Giulio Sapelli, non l'avremo domani, ma oggi... Allora, buonasera professore. Ascoltiamo intanto il commento che ha dato Federica Polidoro dell'Istat alla nostra Livia Zancaner, anche perché l'Istat fa notare che noi, quanto a disuguaglianze dei redditi, risultiamo sopra la media europea. Nella graduatoria siamo alla 20ª posizione. Il dato che abbiamo pubblicato oggi segnala questa, da una parte, crescita del reddito reale e monetario delle famiglie, la prima volta che accade dal 2009 quando era cominciata la discesa, però dall'altra un aumento delle diseguaglianze. Questo vuol dire che l'aumento del reddito che è stato registrato nel 2015 in realtà non si è distribuito in maniera omogenea tra i diversi gruppi di famiglie, nel senso che è andato maggiormente nelle tasche dei più abbienti. A livello europeo siamo lontani dagli obiettivi fissati. La valutazione di questi indicatori viene fatta in funzione della strategia Europa 2020-2020, il 2020 peraltro ormai si avvicina. A livello europeo questa strategia si proponeva di ridurre di 20 milioni gli individui esposti al rischio di povertà o esclusione sociale, questo voleva dire per il nostro paese far uscire 2,2 milioni di persone da tale condizione rispetto al valore registrato nel 2008. E sulla base dei dati del 2016 la popolazione esposta al rischio di povertà e esclusione sociale è superiore di 5.255.000 rispetto al target previsto. Questo vuol dire che siamo ancora lontani da quanto ci siamo prefissati nell'ambito della strategia Europa 2020. Allora, così Federico Polidoro. Tra l'altro l'Italia è sopra la media europea appunto come disuguaglianza, l'indice di Gini, ma insomma da noi il rischio di povertà e esclusione sociale è salito al 30%, mentre a livello europeo è sceso dal 23,8 al 23,5%, ma soprattutto è più alto rispetto all'Italia in Bulgaria, in Romania, in Grecia, in Lettonia, è quasi come in Italia e in Spagna, 28%, ma è più basso il rischio di esclusione sociale, e non di poco, in paesi come la Francia 18%, Germania 20%, Gran Bretagna 22%. Allora, professor Sapelli, le chiedo ancora un minuto di pazienza che ho il traffico, dopodiché vorrei tenere assieme il rapporto Censis e l'Istat per dare modestamente un contributo alla campagna elettorale che fra poco partirà anche ufficialmente. Perché se non si capisce che da un lato c'è una ripresa economica effettiva, vera, inutile raccontare balle, i dati sono tutti nella stessa direzione, ma che non sta portando, sta tagliando fuori una parte della popolazione, e da lì il rancore di chi dice ma come c'è la ripresa economica, io ne sono tagliato fuori, a mio avviso si dà una lettura o miope o presbite, cioè o tutta positiva o tutta negativa dell'andamento. Ma lei commento dopo il traffico. Focus Economia. Allora, professor Sapelli, prego. Passo dal traffico a qualcosa di molto più grave. Naturalmente quello di cui abbiamo parlato ora era prevedibile. Cioè, noi siamo usciti da una crisi che si manifesta soprattutto nella ripresa dell'industria manifatturiera, ma siamo ancora sprofondati in una deflazione, cioè i prezzi non crescono. Noi siamo ancora in una deflazione profonda. Adesso qui si parla di inflazione quando siamo in deflazione. L'inflazione è quando passiamo alle due cifre, ma ormai la regressione intellettuale in cui sono caduti tutti economisti e giornalisti è spaventosa. Quindi dopo aver messo nelle fauci del Minotauro migliaia di miliardi, non riusciamo a raggiungere il 2% della deflazione, della crescita dei prezzi. In queste condizioni è chiaro che le differenze strutturali tra l'Europa del Sud, orora richiamata, Spagna, Italia, Portogallo e Grecia, e le altre Europe, viene eclatante in un sistema a cambi fissi con moneta unica come quella che è l'economia europea governata dall'euro e dall'ordoliberismus tedesco, cioè questo mito assurdo e distruttivo di non fare debito pubblico e di concepire un'economia solo export-led, mi spiego, solo che esporta. Purtroppo, se vogliamo diminuire le disuguaglianze, come hanno detto anche recentemente, udite, contraddicendo se stessi, sia l'ineffabile presidente della BCE, sia Visco, tutti e due ineffabili perché hanno detto cose diverse da quello che hanno detto per anni, hanno detto bisognerebbe, per eliminare le disuguaglianze e rendere la crescita effettiva, aumentare, udite udite, la massa salariale, cioè la domanda aggregata, la domanda interna. Se no, se non capita questo, ma è chiaro che aumenterà sempre più, vie più aumenterà la disoccupazione. È una cosa normale, è una cosa che avviene in tutti i paesi e in tutte le epoche storiche. Pensi che noi abbiamo il 30% di italiani a rischio povertà, ma lei si rende conto cosa vuol dire? E naturalmente chi aumentano adesso? Aumentano le categorie di lavoratori improduttivi e i top managers, quelli che sono ormai senza controllo, cioè tutti quelli che fissano da sé i propri stipendi, lavoratori autonomi altamente qualificati, high skill, top manager che naturalmente hanno una simmetria informativa rispetto ai loro consiglieri d'amministrazione che si fissano gli stipendi che vogliono, e poi coloro che sono nati ricchi e che sono ricchi, eccetera, eccetera, tutte queste cose che sono nella norma. Quello che non è nella norma, e qui veramente si sfiola o il ridicolo o l'ignominia, è far riferimento all'Europa quando si discutono di questi dati. Sai, l'Europa 2020-2020, ma ragazzi, ma bisognerebbe vergognarsi, ma ci rendiamo conto che questa cosa è frutto di una struttura di sistema cambi fissi, di autoregolazione, il cosiddetto pilota economico delle politiche economiche. Quando tu sottrai, lasci perdere la nazionalità, tutte queste robe qui che non mi interessano, ma la possibilità a un governo di fare una politica economica, e lo fai fare da delle persone non elette che hanno un'ideologia che provoca la povertà, ma naturalmente siamo in questa situazione. Allora, Sapelli, le chiedo di stare più vicino al microfono perché ogni tanto la perdiamo. Le chiedo scusa. No, si figuri, ecco il contraddittorio. Qualcuno dice, faccia un contraddittorio. Allora, delle volte mi dite che parlo troppo, delle volte che sono troppo zitto, insomma, non va mai bene. Ma adesso parlare, lo faccio, no, ma lo faccio. Ci mancherebbe. Lo faccio un contraddittorio. Ho capito, a parte il fatto che a mio avviso è più sulle politiche economiche che sull'euro in sé, in senso stretto. Però da questo punto di vista, il consiglio che lei può dare alla campagna elettorale che sta partendo, perché vorrei evitare o una campagna, poi non capiterà, ma insomma, o una campagna in cui si dice va tutto male, nulla funziona e si nasconde il fatto volutamente che le imprese italiane, ne stiamo intervistando in queste settimane, hanno subito una grossa metamorfosi, quelle che stanno andando bene, hanno innovato sui processi ma anche sui prodotti, sono sui mercati internazionali, è aumentata grazie anche all'industria 4.0, ha fatto più 8% la produzione industriale e quindi c'è una impresa italiana manifatturiera ma non solo che si è ripresa e il dato aggregato lo fotografa, quindi dire che tutto va male a mio avviso è assolutamente falso, ma allo stesso tempo pensare che con questo PIL non resti il rancore di chi è escluso, si sente escluso, come dice Celsius, addirittura paura del declassamento, significa andare a sbattere con una parte del paese. Quale dovrebbe essere secondo lei l'iniziativa di carattere politico a questo punto? Scusi, e parli forte, prego. Scusi Barisoni, abbia pazienza, così mi sente? Sì. Sente bene, ecco, allora, le imprese vanno, ma parliamo di politica. Le imprese sono in netta minoranza quando c'è il principio di maggioranza. Qui del PIL, eccetera, quando si deve votare, entrano in gioco. Io sono d'accordo con tutto quello che ha detto, gliel'ho detto anch'io, c'è la ripresa della manifattura, ma chi vota? Quante sono le imprese? Sono alcune decine di migliaia in Italia. Quanti sono gli elettori? Milioni. E naturalmente c'è il rancore, perché qui voglio dire, non si vota impresa per impresa, si vota il cittadino per cittadino. Quindi o la finiamo di pensare che risolviamo i problemi della povertà con il metodo alla Lauro, Achille Lauro, indimenticabile sindaco monarchico di Napoli, che dava la pasta e una scarpa con gli 80 euro, con queste forme di clientelismo, e dobbiamo riprendere gli investimenti. E non dobbiamo smetterla di parlare di reddito garantito, perché io non voglio una platea di poveri mantenuti dalla carità dello Stato. Voglio una schiera di lavoratori e di giovani che abbiano una speranza e che lavorino. Questa è la campagna elettorale che un paese civile dovrebbe fare.

quelli possono essere dei palliativi, ma se vogliamo riprendere una crescita sostenibile dal punto di vista sociale, cos'è? Che crei occupazione e diminuisca le disuguaglianze, bisogna creare lavoro, bisogna creare nuove intraprese, nuove imprese. Quindi bisogna far balenare la possibilità di avere un profitto capitalistico. Oppure, se l'investimento è pubblico, come mi pare che sia assolutamente necessario, lei spera che si possa negoziare con questa Europa. Adesso, per esempio, Juncker oggi ha annunciato tutta una serie di trasformazioni che la Commissione europea dovrebbe proporre al Consiglio e poi di lì al Parlamento, che non serve assolutamente nulla perché non decide mai nulla. Ecco, però di questo piano Juncker, della famosa proposta che si fece anni or sono di dividere dal deficit, separare dal deficit le spese, certo, per investimento, non si è mai fatto nulla. Ma perché? Questo dovete svegliarvi dal vostro sonno cognitivo. Perché? Perché beh, lei non ha un sonno cognitivo perché la pensa molto bene, ma la maggioranza ce l'ha. Amici miei, l'Europa è un costrutto fondato sul potere. E coloro che hanno un potere economico superiore lo fanno valere. E quindi coloro che comandano economicamente l'Europa, che è il duopolio franco-tedesco, ancorché diviso e contrastato al suo interno, vediamo il macronismo e vediamo la paralisi che adesso ha il merkelismo in questa crisi, naturalmente chi ne fa le spese sono coloro che a livello di meccanismo europeo di ripartizione delle risorse sono più deboli. Ma l'economia è una scienza sociale, non è un'aritmetica. Però il Portogallo ha fatto perché? Perché ha disubbidito all'Europa. Accidenti, il Portogallo ha un governo che non ha approvato e applicato le ricette della Troica. Sono d'accordo, lo citavamo anche ieri, visto che ministro Artefice... Allora, le chiedo scusa se posso dire un'ultima cosa. Facciamo come i portoghesi e disubbidiamo all'Europa, non battiamo i pugni. Noi abbiamo un primo ministro che è la quintessenza della diplomazia e della serietà. Si può disubbidire quando si è seri. Abbiamo fatto tutti i compiti a casa. Va bene, allora diciamo al ministro Padoan di smettere di fare quello che sta facendo in questi anni e di lasciare il posto a qualcuno che si inventi una politica economica sul crinale strettissimo che c'è, perché c'è un crinale, anche senza rompere con l'Europa, che imiti il Portogallo, invece di imitare nessuno, perché si obbedisce a degli ordini che sono contro l'Italia, perché sono il frutto di un potere squilibrato che vuole indebolire costantemente l'economia italiana, in ogni mezzo. Quindi lei, non dico che arriva quasi a un complottismo, io sono d'accordo con lei perché... Ma che complottismo? Fermo Sapelli, io ho detto che il Portogallo dimostra nei fatti, che lo spiegavamo ieri nel commentare la nomina del ministro all'economia portoghese Centero, come nuovo presidente dell'Eurogruppo, dimostra che non hanno rispettato gli obblighi europei, perché dopo la Grecia tutti pensavano sarebbe toccato al Portogallo, hanno però in questo modo investito in welfare, occupazione e aumentato il PIL, tant'è che il deficit è diminuito bruscamente, il rapporto deficit sul PIL, quello che ti interessa, dal 9 al 2%. Sono un pochino più scettico sull'idea del piano organizzato e complottistico, non so come dite, no? Mi permetta, amico Barisoni, vada. Io non credo ai complotti, le sto parlando di un'analisi scientifica, la storia non si fa con i complotti e poi ci sono troppi incidenti, i complotti non riescono mai, è il frutto naturale di come abbiamo costruito l'Europa, che non è una passeggiata. È un processo difficile e creativo dove si scontrano degli equilibri di potenza. Ma santi Dio, non c'è bisogno sempre di tirar fuori questo complotto. Questa politica economica imposta dall'Europa non funziona. I portoghesi, governo di sinistra, il Partito Comunista Portoghese, pensi esista ancora un Partito Comunista Portoghese, ha approvato il programma economico del governo, a cui lui partecipa con un'astensione e un governo di minoranza. Quindi è un esempio virtuoso da imitare. Oh, allora le auguro buon di volare via per il ponte dell'Immacolata. Sapelli, viva l'Immacolata! Viva l'Immacolata e viva il suo ponte dell'Immacolata. Grazie anche allo storico dell'economia Giulio Sapelli. Andiamo sul traffico, poi borsa e Bitcoin. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Focus Economia. Minuti, vedo molti commenti sul richiamo al modello portoghese da parte del professor Sapelli. Volevo dare l'aggiornamento di borsa. Allora, per quello che riguarda Milano, la chiusura meno 0,60%, Parigi invariata, Francoforte meno 0,40%, Londra più 0,30%, e Dow Jones meno 0,1%, euro a 1,17%. Ancora tra i titoli, no, sorrido perché qualcuno mi dice: Barisoni impara da Sapelli, ma lo invitiamo apposta per sentire un'idea delle volte simili, delle volte difforme. Meno 3,73% ST Microelectronics, male oggi tutti i tecnologici. Buzzi Unice Impera dell'1,80 come Banca Generali, Banco BPM pure, Tenaris meno 1,60 come Mediobanca, Fiat Chrysler meno 1,40. Bene, invece Telecom Italia, dopo il Consiglio di amministrazione che ha confermato il piano di investimenti, più 3,40%, Jux Net-a-Porter, bene, perché l'Alta Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i produttori possono scegliere le piattaforme e-commerce su cui vendere, e quindi Jux, che è considerato una delle migliori, se ne approfitta, se ne avvantaggia. Prismian più 0,90 come Ferragamo, Campari e Leonardo. La Cassa di Risparmio di Genova ha ceduto al Credito Fondiario un portafoglio di crediti ipotecari, insomma, deteriorati e quindi in sofferenza, dal valore nominale lordo di 1.200 milioni, per un corrispettivo di 270 milioni, quindi li ha ceduti al 22% del valore nominale lordo, migliorativo nonostante sia il 22% di quello che doveva ricevere, riavere, cari Genova, migliorativo rispetto a quanto previsto dal piano industriale. Andiamo sui migliori e peggiori in assoluto. La Roma Calcio meno 17,40, Credito Valtellinese meno 8% e poi Fidia meno 5,60. Gequity invece il migliore, più 12,36, Pit Energia più 6,80, Poligrafici Printing più 5,36%. Ma in tema di mercati, di speculazione, non smetterò mai di dirlo, oggi Bitcoin continua la sua corsa, vola verso quota 13.000 dollari, ha superato anche i 12.000 dollari, questo perché il 10 dicembre verrà lanciato, come abbiamo già anticipato, il primo future sul Bitcoin. Tra l'altro il Sole 24 Ore esce domani con il secondo numero della guida pratica a gestire i tuoi soldi, denaro e tecnologia, il denaro e la tecnologia, a maggior ragione di attualità visto quello di cui parliamo, secondo numero appunto in edicola domani con il Sole 24 Ore. Moria Longo, buonasera. Buonasera a tutti. E grazie anche al professor Fernando Ametrano. Devo dire che la segnalazione ci è arrivata dagli ascoltatori, quindi ben vengano le segnalazioni di varie opinioni sui Bitcoin, che insegna economia all'Università Bicocca di Milano. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera, insegno Bitcoin e Blockchain Technologies. Comunque. Bitcoin e Blockchain Technologies, perfetto. Sempre economia dovrebbe essere, diciamo, nello specifico Bitcoin. Economia e tecnologia. Economia e tecnologia. Allora, poi sentirò Maria Longo. Ci spieghi, nonostante gli allarmi lanciati da vari esponenti, che cosa sta spingendo i Bitcoin fino a 13.000 punti e perché le ritiene, visto che inizio anno valeva 1.000 dollari, l'anno scorso, un anno fa 600 dollari, che non sia il caso di una bolla? Non è una bolla perché c'è anche della sostanza. In questo caso la sostanza è la possibilità di avere per la prima volta in ambito digitale un bene scarso, trasferibile ma non duplicabile, cioè l'equivalente digitale dell'oro. Da questo punto di vista è molto di più una corsa all'oro confusa, effervescente, inaffidabile, ma non una bolla. come, perfetto, capisco il suo punto di vista, anche se il prezzo è decuplicato, il valore, mi scusi, è decuplicato in un anno, senza un motivo, cioè nel senso, l'oro sappiamo che si muove come bene rifugio, sappiamo che esiste anche una produzione di oro, sappiamo che esistono le riserve aurifere, e vediamo sempre che quando c'è tensione sull'economia l'oro schizza. Qui io non ho capito perché stia decuplicando il valore il Bitcoin da un anno a questa parte, da inizio anno addirittura. Ci sono due motivi, uno di ordine culturale e uno di ordine tecnico. Quello di ordine culturale è perché sempre più persone capiscono che, sebbene sia un esperimento ardito, la possibilità di avere l'oro digitale è qualcosa di praticabile. E quindi corrono, intendiamoci, se Bitcoin è oro digitale, e sottolineo il se, evidentemente è ancora grandemente sottostimato. Se non lo fosse, ovviamente si schianterà a zero in poco tempo. Dall'altro lato c'è una considerazione di ordine tecnico, l'ha citata anche lei, sta per partire il future e sappiamo che c'è una pressione di capitali gigantesca che vuole entrare nel mondo Bitcoin e investire in Bitcoin e per motivi tecnici o regolamentari finora non ha potuto. Il future, che ricordiamo è cash settled, cioè è regolato, transato tutto in dollari, permette anche a chi non sa o non può investire in Bitcoin di prendere esposizione a Bitcoin. Quindi è facile che questo bull run, questa grande ascesa, paradossalmente prosegue e si intensifichi con la fine dell'anno. Ecco, mi scusi, professore Metrano, però lei dice adesso c'è il future, quindi si potrà accedere a un mercato regolamentato, però sappiamo che il future per sua definizione è uno degli strumenti più speculativi che ci sono, cioè tu vai a scommettere sul prezzo del Bitcoin a questo punto fra qualche mese, con una cosa che decuplica il valore e ogni tanto anche dei tonfi clamorosi in un anno, non stai aumentando, diciamo, la volatilità dello strumento, quindi amplificando ulteriormente il rischio speculativo? Probabilmente sì, io non attaccherei alla parola speculazione una componente soltanto negativa. La speculazione sui mercati finanziari fa parte di quel processo di scoperta del prezzo, di price discovery, a cui dovremmo essere abituati. È evidente che se noi riflettiamo sul ruolo che l'oro fisico ha avuto nella storia della civilizzazione, fino all'abilità di poter... Un attimo che sto perdendo il collegamento, adesso lo riprendiamo. Ecco, la risento, prego. Sì, no, dicevo, se riflettiamo su qual è il ruolo dell'oro fisico nella storia della civilizzazione, della moneta e della finanza, avere oggi l'oro digitale potrebbe essere dirompente nell'economia digitale, nel futuro della moneta e della finanza. È inevitabile che questi processi non avvengano per crescite lineari e graduali, sono nativamente processi esponenziali, perché o crescono raddoppiando ogni anno o muoiono. Di conseguenza queste sono le dinamiche. Però questo è il meccanismo della catena di Sant'Antonio dell'Aeroplanino che abbiamo già visto, cioè tu continui ad aumentare la catena finché qualcuno non dice che il re è nudo. Una curiosità, qualcuno mi dice ma guardi che Bitcoin inquina moltissimo, sì, abbiamo dato il dato, per il Bitcoin, l'intera elettricità dell'Irlanda se ne va per la gestione di Bitcoin, ma non mi sembra in questo momento il punto. Lei ha investito in Bitcoin, per curiosità? Io ho investito in Bitcoin, quello che consiglio a tutti di investire, cioè una piccolissima frazione della propria ricchezza, il capitale che si è disponibile a perdere, perché lo ripeto, potrebbe apprezzarsi grandemente come potrebbe fallire. Mi resta un dubbio, lo giro a Moria Longo, cioè, io ho capito il ragionamento che fa il professor Metrano, lo equipara all'oro, no? Che... Però l'oro, a parte che io sarò un tradizionalista, sarò vecchio, ma l'oro ha un suo rilievo anche fisico. Cioè, io me lo compro un chilo d'oro, se voglio, e me lo metto in cassaforte o sotto il materasso, magari dormo un po' scomodo. Ma e soprattutto si lega anche a dinamiche di carattere congiunturale. Quando tu hai problemi di tensioni, vai sul bene rifugio per eccellenza, che è l'oro, oppure magari c'è una banca centrale che può immettere grandi quantità di oro abbassando il prezzo perché vuole fare cassa. Sul Bitcoin non, qualcuno mi dice lei è arrabbiato perché non l'ha comprato a $600, ma io non investo, per cui è inutile, non posso essere arrabbiato. Non sono così convinto che non siamo di fronte a una bellissima bolla che è utile per chi vuole speculare, dai tulipani in poi ne abbiamo avute nel corso della storia tantissime, meno utile nel dire guardate che... il Bitcoin è una valuta come altre, o comunque è una riserva, una garanzia come l'oro. Ma secondo me è difficile parlare di bolla. Quando, le caratteristiche di una bolla sono quando c'è un'esuberanza irrazionale, e in questo caso forse c'è, ma quando le valutazioni del bene che si compra superano i cosiddetti fondamentali economici. Il problema è che dietro il Bitcoin non c'è nulla, non ci sono fondamentali. Noi l'abbiamo sempre chiamata criptovaluta, ora la chiamiamo cripto oro. Può darsi che sia il nuovo oro telematico, io non contesto questa cosa. Sta di fatto che non c'è niente di reale sottostante. Allora, per capire se un qualcosa è sopravvalutato e quindi se c'è una bolla, solitamente si guardano per reazioni multipli, cioè il rapporto tra prezzo dell'azione e gli utili delle società. Per una valuta si guarda l'economia sottostante, si possono guardare mille parametri. Nel Bitcoin non ci sono parametri, per cui 12.000-13.000 dollari è tanto poco? Boh, chi lo sa, come allora, dice il professore, può andare a 100.000, può andare a zero. Allora, giro la domanda al professor Metrano, nel senso che anche nell'ultima bolla vera che abbiamo visto, quella del .com, avevamo titoli che capitalizzavano 10 volte la Fiat, 15 volte la Fiat, pur avendo fatturati bassi, e lì potevi dire: attenzione, stai comprando un titolo che sconta 45 anni di utile, 70 anni di utile. Mi ricordo Tiscali, sono arrivato a 70 volte rapporto prezzo utile, o anche forse di più. Ma qui a che cosa facciamo riferimento, professore? Qui facciamo riferimento a una conservazione del valore che è incensurabile, che è incontestabile da governi, che non è manipolabile e non è inflazionabile. Da questo punto di vista, in realtà, ma il sottostante, Bitcoin... professore, mi scusi se sono antico, come sì? Dicono i ragazzi, ma il sottostante qual è? Ma guardi, se io devo trasferire valore a lei, in questo momento io e lei potremmo anche non credere al futuro di Bitcoin, ma la verità è che questo mi permette di trasferire valore istantaneamente, a dei costi bassissimi, indipendentemente da qualunque tentativo di censura. Il fatto che ci sia un meccanismo di trasporto di questo tipo ha valore in sé. Suggerisco, per modelli econometrici, di provare a guardare al quadrato del valore delle transazioni Bitcoin. Si può vedere che la crescita delle quotazioni di Bitcoin è ben descritta, come in qualunque fenomeno di effetto network, dal quadrato, non in questo caso dei nodi, ma dal quadrato dei valori transati. Senta, mi scusi se non voglio andare alla supercazzola, ma e se fosse il riciclaggio dietro Bitcoin? No, sarebbe semplicemente la dimostrazione che Bitcoin funziona. Voglio dire, i criminali usano la telefonia cellulare, internet, il trasporto aereo. Non per questo criminalizziamo strumenti che, oltre ad avere usi fisiologici, potranno avere evidentemente anche usi patologici. Allora, ma ho capito. Un altro elemento. Lei sì, devo mi chiudere. Dice... Mi dica. Prego. No, mi I dica, tulipani, mi dica. I tulipani, la prego, non paragoniamo un fenomeno dell'Olanda del 600, durato al massimo 6 mesi o forse 3 anni, con un fenomeno dell'economia globale dell'informazione del 2017 che va avanti da 9 anni. Sì, professore, nel ringraziarla, perché come vedete, lo dico a chi è un fanatico del Bitcoin, invitiamo qualunque tipo di opinione. Io mi ricordo però, perché sono un po' vecchio, che nel 99-2000, prima dello scoppio della bolla, mi veniva spiegato, non da lei, ci mancherebbe, ma da altri esperti, come fossi vecchio io perché il .com non si potevano valutare come la old economy, e quindi era giusto avere 70 volte, 80 volte, 90 volte gli utili attesi, poi è venuto giù tutto e alla faccia della old economy. Non vorrei che fossimo allo stesso livello, ma la ringrazio perché ho capito, diciamo, il ragionamento che fa lei. Grazie anche al professor Ferdinando Ametrano, che insegna appunto Bitcoin e blockchain alla Bicocca di Milano. Grazie a Mario Longo del Sole 24 Ore. A tutti voi in viaggio l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.